ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele d'arenetta deliziose, muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog, ogni giorno domanda: quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sui nuovi smartphone, le app, nuovi servizi web e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Maturità, versione di Seneca per il classico, bici a ruote quadrate per lo scientifico. Tra le tracce per gli altri indirizzi, la gestione del carpooling e Umberto Eco. Si è tolto la vita l'uomo che avrebbe ucciso un oncologa nel Teramano. Poco più di 50 anni, perseguitava la donna da tempo ed era stato denunciato due volte. 'Ndrangheta, l'allarme della direzione antimafia sui rapporti con la politica e le istituzioni, è la mafia più potente e presente ovunque. A 5 mesi dalla tragedia del Rigopiano, polemica sul convegno intitolato «Dalla calamità una valanga di opportunità», l'università lo cancella. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e ovviamente la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale andiamo anche in diretta video, come ormai sapete, così come andiamo in diretta video anche sulla pagina Facebook di Radio 24, e se volete potete commentare anche là, come avete sentito, vi leggiamo anche là. In apertura dunque torniamo alle prove di maturità dopo quella di ieri, generale, quella per tutti, secondo giorno, prova diversa a seconda degli indirizzi. Un punto con Anna Marino. Anna. Sì, buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Atto secondo per la maturità 2017 dopo la prima prova d'italiano, come dicevi, oggi di nuovo per circa 500.000 di studenti è il momento della seconda prova scritta, diversa, come dicevi, a seconda dell'indirizzo scolastico. Partiamo dal classico con Seneca, atteso dal Toto Maturità. Per la versione di latino al liceo classico, appunto, un brano del saggio Il valore della filosofia era dal 2011 che non usciva, non un brano impossibile anche perché ben conosciuto dagli studenti, secondo il professor Simone Beta, docente di filologia classica all'Università di Siena. Se c'è una difficoltà è nella terminologia filosofica, nel senso che gli studenti devono fare attenzione a tradurre in modo corretto certi termini che fanno parte proprio del linguaggio della filosofia stoica, che era quella seguita da Seneca. Piace Seneca sui siti. E poi per matematica, allo scientifico un problema in cui si chiede di calcolare il profilo della pedana per far muovere una bicicletta dalle ruote quadrate, citando il caso del MoMath Museum of Mathematics di New York. L'invenzione risale all'Ottocento, è facile da trovare immagini e video su tutti i siti, su cui oggi si ironizza anche su Twitter, su questa bici con le ruote quadrate, ma presenta una particolare difficoltà questo problema, secondo Enrico Giusti, ex docente di storia della matematica all'Università di Firenze e curatore del Museo della Matematica a Firenze, appunto, in cui però non c'è questa bici. Sentiamo. Quello che viene richiesto è che nel movimento della ruota quadrata il centro rimanga sempre sulla stessa linea orizzontale. Questo non è facile da capire. Lo studente rischia di non riuscire proprio a partire. Se non capisce bene come formulare matematicamente il problema, non sa che cosa fare. Non ci sono possibilità intermedie, nel senso non è che uno ne può fare un po'. E poi non dimentichiamo le curiosità e le altre discipline come tecniche della danza al liceo coreutico, economia aziendale per l'indirizzo amministrazione, in cui l'analisi di bilancio questa volta si fa concretamente, non su un'azienda alfa o beta ma su un'azienda manifatturiera reale, e per gli informatici la sfida di sviluppare un software per un servizio di carpooling. E intanto i siti degli studenti stanno rielaborando le prove per capirne la difficoltà. A minuti avvertiamo i risultati online per fare un primo test immediato, ed è tutto. E grazie Anna Marino per questo aggiornamento sulla maturità. Noi passiamo alla cronaca per la vicenda della donna che è stata uccisa, si presume, almeno presumono i carabinieri, dall'uomo, dal suo stalker sostanzialmente, che tra l'altro era stato denunciato due volte. Evidentemente non c'è stato nulla da fare, non c'è stato modo di bloccarlo. Comunque l'uomo si è tolto la vita, si è appreso poco fa. È stato trovato morto suicida in un appartamento di Martinsicuro, in provincia di Teramo, Enrico Di Luca, 65 anni, ex investigatore privato che da ieri era ricercato per l'omicidio di Esther Pasqualoni, l'oncologa rosetana di 53 anni in servizio all'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero, dove è avvenuto il delitto. L'uomo era fuggito a bordo della sua Peugeot 106 bianca, che già nella notte era stata ritrovata nel parcheggio condominiale della sua abitazione a Villa Rosa di Martinsicuro. Dovrebbe trattarsi proprio dello stalker che la donna aveva denunciato ben due volte, denunce poi archiviate. E l'epilogo di un barbaro assassinio commesso da chi a Esther diceva di voler bene ma la perseguitava. Solo le mani amiche del medico del pronto soccorso, che per primo l'ha soccorsa intorno alle 16 di ieri pomeriggio, hanno provato a strapparla alla morte, ma inutilmente. La donna, che lascia due figli minorenni, è morta poco dopo. Sul caso stanno lavorando i carabinieri e la polizia. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Teramo. Siamo alla politica, politica che oggi ci parla soprattutto delle vicende della giunta romana. Ieri c'è stata la conferenza stampa, come sapete, della sindaca Virginia Raggi per raccontare un anno di insediamento della sua giunta, ma nel frattempo ci sono le questioni giudiziarie che pendono su tutto. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. La non facile esperienza della Raggi al Campidoglio. Ieri, lo ricordavi Simone, il bilancio di un anno di lavoro si arricchisce oggi di una nuova polemica sollevata dai contenuti delle intercettazioni dell'ex collaboratore Raffaele Marra. In queste vi sarebbe la prova che Marra ha partecipato all'iter che si è concluso con la promozione del fratello Renato alla direzione turismo del Campidoglio. Un fatto questo in netto contrasto con quanto sostenuto dalla sindaca nella relazione inviata all'anticorruzione, con cui si è assunta tutta la responsabilità della scelta. Episodio che potrebbe costare alla Raggi il rinvio a giudizio per falso. Marra, nelle intercettazioni relative all'epoca dei fatti, fa capire che la Raggi è furiosa, mi sta addebitando che non sono stato sufficientemente chiaro, aperto, che non gliel'ho detto 10 volte invece di 9, che la dovevo svegliare. Quindi lo sfogo di Marra alla Raggi è da esame psicologico. Nelle intercettazioni Marra attacca quindi anche la Lombardi, deputata 5 Stelle, storicamente tra gli esponenti più critici dell'operato della Raggi. La Lombardi commenta: un'altra medaglia al valore, un altro motivo d'orgoglio per aver difeso con i denti la mia città. Infine a settembre lascerà l'incarico Massimo Colomban, assessore alle partecipate della giunta capitolina. Nessuna polemica, spiega Colomban, il mio è un assessorato di scopo, sto completando tutta la riorganizzazione della governance delle partecipate. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque a Vincenzo Miglietta anche per questo aggiornamento. Non possiamo più mettere soldi pubblici in Alitalia. Parole del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, intervenuto questa mattina a 24 mattino, attenti a noi due, ospite dunque di Oscar Giannino e Alessandro Milan, ha spiegato che spendere meno soldi pubblici possibile su questo tema è la priorità. Calenda si è anche concentrato sul DDL concorrenza. È fermo, lo ricordiamo, da 800 giorni, più di 800 giorni in realtà, è ancora bloccato in Parlamento a causa di 4 emendamenti del Partito Democratico che potrebbero portare il provvedimento alla quarta lettura. Sentiamo Calenda. In Italia non si sa perché la concorrenza è considerata una cosa che può danneggiare chi la porta avanti dal punto di vista politico. Io credo che sia esattamente l'opposto, perché dove non c'è la concorrenza ci sono le rendite. Siamo arrivati con grande fatica, abbiamo provato al Senato, è andata alla Camera. Ci sono 4 emendamenti che sono 4 emendamenti del PD che sono sostanzialmente chiarificatori e non sostanziali, dove io ho dato l'impegno del governo a risolvere queste 4 questioni. Spero che si faccia in maniera che si approvi una volta per tutte in aula la versione al Senato e che non si ritorni un'altra volta al Senato in quarta lettura, perché sarebbe una pessima immagine, ma sarebbe anche, daremmo anche l'idea che veramente non riteniamo la concorrenza, come invece io ritengo, un grande elemento anche di equità sociale. Allora io spero proprio che il PD non si trasformi dal partito che voleva rottamare le rendite e le caste al partito che rottama invece la concorrenza, perché sarebbe un'immagine pessima, credo. Così dunque Carlo Calenda, l'intervista integrale, se vi interessa la trovate ovviamente sul nostro sito e nel podcast di 24 Mattino di Alessandro Milan e Oscar Giannino. Siamo all'apertura del Consiglio Europeo di oggi, migranti e Brexit ovviamente al centro della scena. Migranti, lotta al terrorismo, commercio, mercato unico, Brexit, tanti temi sul tavolo del vertice europeo, le politiche migratorie in primo piano con l'Italia che chiede nuovi criteri per ridistribuire richiedenti asilo, più fondi e una gestione collegiale dei salvataggi in mare. L'Italia può contare sulla solidarietà dell'Europa, intanto rassicurato il presidente della Commissione Juncker che ha avuto questa mattina un bilaterale con il premier Gentiloni. I due hanno riaffermato la loro determinazione congiunta per attuare l'agenda europea sulla migrazione. Al centro del vertice che parte nel pomeriggio anche la lotta al terrorismo, si punta ad un maggiore coinvolgimento dei colossi del web per arginare la propaganda online. Tra i temi spinosi anche lo scudo immaginato da Italia, Francia e Germania per proteggere i settori industriali europei chiave della concorrenza sleale di alcuni prodotti provenienti da paesi come la Cina e il trasloco altrove alla luce della Brexit di due agenzie europee attualmente con sede a Londra, quella che si occupa dei servizi bancari e quella del farmaco. Milano è in lizza per la prima. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si è parlato di lotta al terrorismo, si parlerà di lotta al terrorismo nel Consiglio Europeo, come avete sentito nel servizio della nostra Alessandra Schepisi. Nel frattempo sul terreno in Iraq c'è la battaglia in corso contro l'ISIS, l'offensiva finale che sta generando una situazione umanitaria gravissima con decine di migliaia di persone intrappolate in città, e a questo si aggiungono i fatti di stanotte quando si è appreso che è stata abbattuta la moschea di Mosul in quello che gli Stati Uniti hanno definito come un crimine storico. Alberto Negri. Per il Medio Oriente i conflitti contemporanei di Siria e Iraq sono ancora più devastanti della Seconda Guerra Mondiale. Questo ci racconta l'ultimo sfregio, la distruzione della moschea al-Nuri di Mosul. Al viaggiatore che conosce da tanti decenni questa regione, oggi si stringe il cuore e lo sguardo che un tempo si alzava ad ammirare monumenti di tante civiltà millenarie, adesso si abbassa sconsolato al suolo per scrutare con angoscia le macerie che riempiono le strade e le piazze di città come Aleppo, Homs, Palmira in Siria, Mosul e Ninive in Iraq. Questa seconda guerra mondiale del Medio Oriente sta coinvolgendo in pieno anche le superpotenze come gli Stati Uniti e la Russia, rende ancora più accesa la contrapposizione tra Iran e Arabia Saudita, tra sciiti e sunniti, divide e lacera anche lo stesso ribollente universo sunnita. L'estremismo dei jihadisti scorre come un veleno mortale nelle vene aperte di questa regione, l'occupazione di truppe straniere diventa una presenza forse necessaria ma umiliante, le società sono frammentate e divise da conflitti settari, tecnici, economici e di potere. Le distruzioni materiali sono eclatanti, quelle morali forse ancora di più, e tra qualche tempo sembrerà persino assurdo rintracciare colpe e responsabilità. Nel frattempo, così Alberto Negri, appunto sull'ennesima distruzione avvenuta in una di quelle città che hanno così tanti reperti storici e artistici che testimoniano la storia appunto non solo di quei paesi. Nel frattempo la Francia di Macron sembra voler cambiare strategia su quegli scenari. Ogni giornale ha scelto i suoi passaggi preferiti, ma ricomponendo il puzzle è chiaro quanto l'approccio del presidente francese alla crisi siriana sia diverso non solo da quello del suo predecessore, ma anche da quello di molti governi europei e di al di là degli oceani, fino all'Australia. La novità principale è il disinteresse di Macron rispetto alla rimozione di Assad dalla presidenza, perché non è una priorità, dice, e poi non è stata fornita nessuna alternativa. La democrazia non si impone dall'esterno, sostiene. Gli interventi in Libia ed Iraq hanno portato al fallimento di due stati in cui ora prospera il terrorismo. È stato un errore, come è stato uno sbaglio non intervenire quando sono state usate armi chimiche in Siria. Quello era il limite fissato anche dagli Stati Uniti. Se ricapiterà, interverremo, sostiene, anche da soli. La priorità oggi va data alla lotta al terrorismo e alla stabilizzazione a breve termine del paese, prosegue Macron. Obiettivi che possiamo condividere con Mosca, dalla quale ci dividono, dice, altre questioni, ma non questa. Ho già parlato 5 volte con Erdogan, 2 con Rouhani, ho ricevuto Putin, perché la Francia deve recuperare quel ruolo diplomatico che la contraddistingueva. E conclude il presidente francese, il neoconservatorismo di importazione degli ultimi 10 anni con me è finito. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Le leggi italiane sono inadeguate a punire e quindi a prevenire gli atti di tortura commessi dalle forze dell'ordine. L'ha stabilito la Corte Europea dei Diritti Umani, che ha condannato ancora una volta l'Italia per gli atti perpetrati dalle forze dell'ordine nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2001 nella scuola Diaz al G8 di Genova, ai danni di diverse persone. La Corte ha anche condannato l'Italia per non aver punito in modo adeguato i responsabili di quello che è avvenuto a Genova. È in carcere in Portogallo Maurizio Tramonte, l'ex informatore dei servizi segreti arrestato ieri a Fatima il giorno dopo la condanna definitiva all'ergastolo insieme a Carlo Maria Maggi per la strage di Piazza della Loggia a Brescia. La pratica di estradizione dovrebbe essere completata in pochi giorni. Per gli inquirenti era pronto alla fuga, ma lui si è difeso, ha detto: sono qui per pregare. Così il suo legale, l'avvocato Marco Agosti, al microfono di Maria Luisa Pezzali. La procedura di estradizione è una procedura portoghese, sarà un difensore portoghese secondo la normativa portoghese. Ha idea di quali possano essere i tempi? Non ho idea. La figlia ha detto che non era fuggito, ma si trovava a Fatima per un percorso di preghiera. Ecco, in base alla conoscenza di Tramonte in questi anni, lei che cosa può dire su questa circostanza? Avesse voluto fuggire, avrebbe avuto tutto il tempo, i modi per organizzare in maniera diversa la sua comportamento. La presenza a Fatima, è chiaro che uno il giorno della sentenza sembra che uno avrà ben diritto a chiedere una grazia dove si spera che le richieste siano più facilmente ascoltate. Ecco, non ci vedo un tentativo di fuga, che comunque sarebbe lecito, nel senso, non vedo perché una persona che si ritiene innocente debba volontariamente mettere la testa sul ceppo. Ecco, detto questo, non mi pare che in concreto la condotta di uno che vada a un santuario sia idonea a rappresentare una fuga. Ecco. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ci ritroviamo per il nostro giro per l'Italia. Ieri ve l'avevamo detto, insomma, che eravamo alla ricerca dell'assessore alla sicurezza del Comune di Torino. Finalmente ci parleremo oggi, dopo due giorni di intense ricerche da parte della mitica Laura Faggin, e poi parleremo anche di Teramo. A Teramo sono successi due fatti. Uno è quello che vi abbiamo raccontato in cronaca poco fa, ossia la donna che è stata uccisa dal suo stalker che era stato già tra l'altro denunciato due volte. A Teramo però succede anche altro. È stato organizzato un convegno all'università, ve l'abbiamo anche detto nei titoli, che a 5 mesi dalla tragedia dell'hotel Rigopiano che tanto vi abbiamo raccontato, questo convegno si intitolava "Dalla calamità, una valanga di opportunità". Ne parleremo con il rettore dell'università tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Siamo in diretta video, quindi se volete potete anche vederci, e anche in diretta video sulla pagina di Radio 24. Insomma, in entrambe le pagine Facebook ci potete trovare, e 349-238-6666 il numero per gli SMS e per i messaggi su WhatsApp. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di maturità, abbiamo parlato della vicenda dell'uomo che si è tolto la vita dopo aver ucciso la donna della quale era uno stalker, e siamo nel teramano della battaglia per Mosul e della distruzione di una moschea, del cambiamento di politica per quanto riguarda la Siria e l'Iraq, almeno apparente, almeno a parole di Macron, e del Consiglio europeo. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, iniziamo proprio da Teramo. Teramo che piange la morte di questa donna, un'oncologa che è stata uccisa da quest'uomo che era un suo stalker. Ha raccontato ieri Caterina Longo, amica di Esther Pasqualoni, di questa donna che aveva presentato 2 denunce contro il suo stalker, ma erano state entrambe archiviate. La notizia di oggi è che il presunto killer si è tolto la vita. È chiaramente quello che è successo un fallimento del funzionamento di certe regole che riguardano appunto lo stalking, e abbiamo cercato di parlare anche, tra l'altro, oltre che con l'avvocato della donna, con l'avvocata della donna, con l'avvocata di Esther Pasqualoni, abbiamo provato a parlare con il centro antiviolenza di Teramo e abbiamo appreso che è aperto il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18. Questo è il quadro degli orari. Poi c'è anche, se non sbaglio, un mercoledì mattina e un sabato mattina. E questo fa parte evidentemente del fallimento di un sistema che in qualche misura non funziona. Andiamo però a Teramo per parlare di un'altra vicenda. È la vicenda di questo convegno che sta facendo discutere, perché la locandina è girata molto in rete, si è riempita di insulti a 5 mesi dalla tragedia del Rigopiano, i 29 morti nell'albergo travolto da una slavina, lo ricordiamo tutti. Ebbene, questo convegno dal titolo "Dalla calamità, una valanga di opportunità". Luciano D'Amico, rettore dell'Università di Teramo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, come è uscita fuori questa cosa, rettore? È il risultato di una serie di errori nella definizione del titolo, errori tanto più gravi perché il titolo non riflette né i contenuti del convegno né lo spirito del convegno. Il convegno era stato organizzato per presentare una mappatura sulle valanghe che si sono verificate sul Gran Sasso nell'ultimo inverno, per poter in qualche modo predisporre una mappa del rischio. E poi sarebbe stato arricchito da interventi su tecniche di riforestazione per poter contenere, se non addirittura prevedere, il verificarsi di valanghe. Quindi aveva anche un senso, D'Amico, in realtà un senso profondo e molto correlato a quello che è successo, e anche un intento scientificamente nobile. Assolutamente sì, l'obiettivo era esattamente l'opposto di quello che è emerso da un titolo assolutamente infelice. Ma prevedere, ma chi l'ha fatto questo titolo? Chi l'ha fatto questo titolo, D'Amico? Guardi, il convegno è stato organizzato da vari enti, ricercatori, e il titolo è venuto fuori con delle falle, passando per delle falle per un sistema di controllo, questo è fuori dubbio. A me spiace che questo si sia verificato, mi sono scusato personalmente con il comitato delle vittime di Rigopiano e più in generale con tutti gli abruzzesi che in qualche modo sono ancora provati da tutti gli eventi che si sono verificati in regione nello scorso inverno. Ma tengo a precisare ancora una volta che l'obiettivo del convegno era altro, era esattamente l'opposto. Sì. E mi dispiace molto di essere stati accostati agli affaristi che la notte del terremoto dell'Aquila ridevano pensando di realizzare affari su una tragedia come quella del terremoto. Quindi D'Amico, mi scusi, non si riesce ad identificare una responsabilità diretta, diciamo così? Insomma. Ma non penso che si potrebbe anche verificare e individuare una responsabilità diretta. Personalmente ho ritenuto di non farlo perché mi sembrava molto più opportuno, immaginando la buona fede anche di chi ha ideato un titolo così infelice, mi sembrava molto più opportuno scusarmi con le vittime, con i familiari delle vittime, e procedere poi a sottolineare invece il contenuto del convegno. Sì. È un contenuto con finalità opposte a quelle che emergevano da un titolo infelice. La ringrazio, grazie Luciano D'Amico, e magari avremo occasione, non so se in questa sede o in altre trasmissioni, proprio di approfondire il tema del convegno, perché ripeto, il tema c'è tutto ed è interessante. Grazie Luciano D'Amico, rettore dell'Università di Teramo. Tra poco andremo a parlare con l'assessore alla sicurezza di Torino per occuparci, lo faremo nella seconda parte della trasmissione, per occuparci di quello che è successo nella notte del 20 giugno, quelle botte, i deor distrutti, le cariche della polizia, perché a quanto pare la giunta torinese sta un po' scaricando la questura, sta dicendo: beh ragazzi, è colpa vostra, bisogna andarci un po' più tranquilli. Con l'assessore di Torino finalmente rintracciato, appunto, ne parleremo, ma prima vogliamo occuparci di 'Ndrangheta. Perché oggi c'è stato il rapporto della Direzione Nazionale Antimafia, che ancora una volta identifica la 'Ndrangheta come l'organizzazione criminale più pericolosa, da una parte. Dall'altra parte segnala ancora una volta quanto la criminalità organizzata calabrese sia infiltrata nei gangli dello Stato e delle istituzioni. Sentiamo. Seduti al tavolo delle istituzioni, ma non di rado anche a quello delle cosche, allo stesso tempo uomini della politica, delle professioni o dei servizi segreti, ma pure uomini di 'Ndrangheta. Parla di piena intraneità la Direzione Nazionale Antimafia per descrivere il rapporto tra malavita organizzata calabrese e pezzi delle istituzioni, un rapporto a volte così stretto che quelli che in teoria dovrebbero essere servitori dello Stato fanno invece parte talora di una riservata struttura di comando della stessa 'Ndrangheta. 'ndrangheta, scrive la DNA. Anche questo emerge dalle indagini in corso che portano la super procura ad indicare ancora una volta nella sua relazione la mafia calabrese come la più potente per la sua capacità di essere presente in tutti i settori nevralgici dell'economia e della pubblica amministrazione, oltre che per i suoi rapporti con la massoneria, i cui elenchi di iscritti in Calabria e Sicilia sono ora al vaglio della commissione antimafia. La corruzione resta uno degli strumenti delle mafie per raggiungere appalti pubblici, spesso attraverso l'aiuto di ex politici come facilitatori, avverte la direzione antimafia, che poi nelle sue competenze di antiterrorismo registra come siano diminuite le partenze dei foreign fighters verso le trincee del califfato in Siria e Iraq, ma non per questo, tutt'altro, i rischi di attentati in Occidente. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lamezia. Come si diceva, adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi torneremo a parlare di sicurezza a Torino e di quell'ordinanza che vieta la vendita degli alcolici dalle 20 alle 6. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, in diretta video naturalmente. I nostri titoli: per la maturità esce la versione di Seneca per il classico, bici a ruote quadrate per lo scientifico, tra le tracce per gli altri indirizzi, la gestione del carpooling e Umberto Eco. Si è tolto la vita l'uomo che avrebbe ucciso un oncologo nel Teramano, poco più di 50 anni, perseguitava la donna da tempo, era stato denunciato due volte, in entrambi i casi le denunce erano state archiviate. L'andrangheta, lo avete sentito poco fa, l'allarme della direzione antimafia sui rapporti tra politica, con la politica e le istituzioni, è la mafia più potente presente ovunque. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, eccoci qua. Come si diceva, dopo un paio di giorni di ricerca siamo riusciti a rintracciare l'assessore alla sicurezza, allo sport e alla sicurezza del comune di Torino. Finalmente la nostra Laura Faggin ce l'ha fatta. Qualche ascoltatore scherza: beh, a questo punto scusate, ma andiamola a rintracciare Igor, che magari lo trova lei. Io rimango dell'idea che su quella cosa là la soluzione migliore sia qualcuno di Equitalia, cioè tu gli piazzi una cartella esattoriale di qualche tipo e vedrete che nel giro di tre giorni questo viene catturato. Si diceva Torino e la vicenda della, aperte virgolette, io odio quell'espressione movida, comunque la vicenda della movida violenta, così ci capiamo subito. Quello che è successo nella notte di due giorni fa, quando per far rispettare questa ordinanza anti-alcol che prevede il divieto della vendita di bevande alcoliche da sport tra le 20 e le 6 del mattino, è intervenuta la polizia, tra l'altro in assetto antisommossa, ci sono stati scontri, c'erano anche persone appartenenti ai centri sociali, 4-5, una decina dicono alcuni deor dei bar della zona distrutti e chiaramente come dire, un certo livello di tensione che si alza. Dunque con Roberto Finardi, che è appunto l'assessore allo sport e alla sicurezza del comune di Torino, abbiamo la prima domanda per lui, è questa. Ci è sembrato di capire che l'amministrazione abbia un po' scaricato la colpa sul questore e su come la polizia ha gestito la cosa. Cosa ci dice? Ma non è mia intenzione quella di scaricare assolutamente nessuno. Il questore fa il suo lavoro, credo, come chiunque prova a farlo nel migliore dei modi. Ovvio che è un ruolo anche delicato, è chiaro che però è oggettivamente non possiamo accettare che si verifichino però delle situazioni come quella di ieri. Da una parte e dall'altra io credo sempre che con un po' di rispetto e di educazione e parlandosi si possa insomma risolvere ma lei ha l'impressione assessore che sia stata gestita male dalla polizia la serata del 20, la notte del 20? Guardi, io purtroppo ne ero presente perché in contemporanea mi ha preso fuoco una piscina, quindi ero a far compagnia ai pompieri, quindi parlerei io purtroppo non ero presente. Io credo che con Però un po' si più sa di fa, tatto, si sa, dico si sarà fatto un'idea, no? Certo, beh, io credo che con un po' più di tatto, forse un po' più di discrezione, le cose sarebbero potute non sfociare, non degenerare. Questo da entrambe le parti, non voglio assolutamente dare la colpa all'uno o all'altro, ecco, però se ci sono già delle situazioni magari delicate, credo che sarebbe opportuno perlomeno utilizzare ancora più come dire più riguardo e più attenzione. Cioè, ecco, lei ci sta dicendo, senza dircelo, che secondo lei la polizia ha ecceduto? Diciamo che secondo me si poteva essere magari un attimo più riflessivi, ecco, uso questo termine, poi non sono io che devo insegnare come si gestisce la pubblica sicurezza, il questore lo saprà meglio di me, ecco, su questo non credo che ci siano dubbi. Io mi auguro che questo sia però veramente il primo ed ultimo episodio di questo genere, anche perché insomma da quello che mi dicono e da quel poco che ho potuto vedere attraverso dei filmati, c'erano famiglie, c'erano bambini, c'erano persone comuni e normali che si godevano il fresco, voglio dire, non voglio che la mia città diventi questo, ecco, credo che nessuno lo voglia, ecco. Tutto inizia, assessore, per riassumere un po' con gli ascoltatori, ne abbiamo parlato spesso, ma lo vogliamo ricordare, tutto inizia con il 3 giugno, la notte della finale di Champions, in piazza San Carlo, un'ondata di panico conduce a 1500 feriti e una vittima, Erika Pioletti, 38 anni, e questo l'abbiamo ampiamente raccontato, e poi una serie di episodi di tensione che in parte scaturiscono anche, assessore, dall'ordinanza parte naturalmente, cioè, si sta dicendo che è giustificabile quello che è successo dall'ordinanza che avete varato e che di fatto vieta la vendita da asporto di alcolici, non solamente in vetro, di qualsiasi tipo, dalle 20 alle 6 del mattino in alcune zone della città. Non è un po' troppo, non è un'ordinanza un po' troppo restrittiva, assessore? Ma al di là del fatto che uno può sempre sicuramente, come dire, in qualche modo valutare o rivalutare, però io credo che se basti un'ordinanza di questo genere per scatenare delle reazioni di questo tipo, insomma mi sembra un po' eccessiva. Poi credo comunque che ci sono molte regole, alcune, questo parlo nella vita di ognuno di noi, cioè anche a me ci sono molte regole che non mi piacciono, questo però non mi esento no, ma infatti diciamo che non è giustificabile, l'abbiamo detto, esatto, non è giustificabile, esatto, quello, perché sennò però, un pretesto per qualsiasi situazione lo si trova sempre, ma per qualunque tipo di comportamento, no? Questo credo in riferimento a ognuno di noi, no? Infine, a livello più generale, le voglio chiedere questo. Oggi il quotidiano La Stampa mette in fila tre episodi. Dopo Piazza San Carlo, il 13 giugno cori contro la polizia in Piazza Santa Giulia, gli agenti accerchiati ai Murazzi il 18 giugno perché volevano fermare un venditore abusivo di alcolici, e poi quello che è successo il 20 giugno. Sono segnali di qualcosa di più, secondo lei, o episodi isolati? Io credo che siano degli episodi isolati, io credo che Torino è una città civile che ha saputo sempre fare come un vivere tante realtà, penso che le problematiche di Torino siano poi le problematiche di tutte le grandi città. Io prima di dire che insomma che c'è dell'altro, per me sono delle situazioni frutto di un momento, ecco, di situazioni episodiche, e proprio per questo credo che non vadano ingigantite con delle reazioni o delle provocazioni da parte di chiunque, ecco. Allora, grazie a Roberto Finardi, che è appunto l'assessore allo sport e alla sicurezza del Comune di Torino, per averci dato quelle che sono le sue valutazioni. Come avete sentito, è in corso la ricostruzione dei fatti. Qualche ascoltatore dice è stato aggredito prima un poliziotto e poi i poliziotti hanno reagito. Insomma, anche là, le ricostruzioni di questi fatti sono in corso, come avete sentito però abbastanza nitidamente l'assessore, così come ha già fatto la giunta in realtà nelle scorse ore, attribuito un po' di responsabilità alla questura e alla polizia per come è stato gestito l'ordine pubblico in quella serata e per come è stata fatta rispettare quest'ordinanza che prevede la vendita degli alcolici da sporto dalle 20 alle 6. Abbiamo provato a rintracciare, questa volta è la mitica Laura Faginna, non ci è riuscita. Abbiamo provato a rintracciare qualcuno che ci parlasse della vicenda invece di Teramo, quella della donna uccisa dal suo stalker. Abbiamo provato a rintracciare l'avvocata, non ci siamo riusciti. Di certo il grande tema è quello che ci ha scritto un'ascoltatrice, credo poco fa: ma ci sarà qualche responsabile per le due archiviazioni delle denunce della donna nei confronti di quest'uomo? Quest'uomo che tra l'altro non era nemmeno il suo fidanzato o ex fidanzato, era un perfetto sconosciuto che di fatto la ossessionava ed era riuscito ad infiltrarsi nella sua vita, almeno da quello che siamo riusciti a ricostruire fino adesso. Naturalmente se dettagli ulteriori ne usciranno nelle prossime ore, ve li daremo. Ci fermiamo adesso, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, il nostro Mario Platero, e ci risentiamo alla fine per i saluti.